Paradosso Spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry, love, what was that all I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sore, shopping, you've been smoking way too much more. Cause I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, I suggest you just flush. Stefanuccio, dove sei? Ma secondo te, com'è che i ventenni si mettono a dipingere le nature morte? Ups and downs, in and out of your hair. I don't really care what the girl who works here. The what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. Always flush, out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sick. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stored, shopping the biz, walking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get it, always I suggest you flush. Ma quindi sei in mezzo a nature morte di giovani? Mele, pere, banane, ma vuoi dire che nel 2019 non ci sia niente di meglio da dipingere? Vabbè, questo è il tuo campo, io non lo so. Certo che, insomma, sono un po' stranito. Come stai, Feda? Sono un po' emozionata, sai? Ah sì? Farmi un coxo così in solitaria senza di te con questa super mega ospitessa. E benvenuti al 253esimo coxo. Hai capito, Stefano, che l'ho detto tutto così, Bravissima. Perché sono emozionata, oltre che per la super mega ospitessa che è qui dall'altra parte del vetro e che è uno splendore, mannaggia te che non ci sei, anche perché so di per certo che stasera ci stanno ascoltando una macchinata di rigger. Una macchinata di rigger ci sta ascoltando dall'autostrada, quasi tratta interregionale, e io quindi sono un pochino eccitata, ma non mi faccio battere dall'eccitazione, dal pudore, da tutto quello che vuoi, e continuerò a condurre il coxo anche per te, insieme Bravissima. Alla nostra super mega ospitessa della 233, l'avevo detto giusto prima il numero, della 253. Bravo Stefano, sempre sul coxo. Esatto. Ti presento, ti introduco la voce della nostra ospitessa. Dai, volentieri. Ciao Stefano, sono Manuela. Ciao Manuela. Manuela Ara, detta Lela. Hai capito? Abbiamo anche un detta. Ed indovina un po', intanto che te sei lì a intrufolarti, quanti buffetti sei fatto sta settimana con l'arte fiera? Ma c'è ancora arte fiera? No, è finita. Adesso cosa stai a fare allora? Dove sei con le nature adesso morte? Sono a Stoccarda. Come te a Stoccarda? Ma c'ero io la settimana scorsa. Appunto. Volevo vedere, sono venuta a vedere se c'eri davvero. No, io sono tornata intanto, però te magari passi. Infatti non ci sei. Bravo. Passa a salutare la Cri. La CRI? Sì. Sì, certo. E anche Suria, sì. Mi raccomando. No, in realtà sto per entrare in autostrada. Anche tu, vai a trovare i Rigger. Esatto. Spero di non incontrarli, però. No, guarda, se li incontri fai un bel affare, tutta gente a modino, dei gragnocchi, certo, se li incontrassimo io e la Lela sarebbe meglio, però tu puoi fare le nostre veci. Esatto. E allora buona autostrada a te, mio caro Stefano, e goditela, perché lì non c'è neppure il limite di velocità. Però prima devo dire una frase che non me la ricordo più, come faccio? Aspetta, stiloso e cavoli, non me la ricordo più. Non me la ricordo più. Aspetta, che questa ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'hai tu? Beh, più o meno, io c'ho questo. Creatività generica. Ci stava? Una voce affascinante e stilosa. Sì, esatto, questa era la frase che mancava, giusto? Esattamente. Perfetto, la tua, anche quando sei in trasferta germanica, torna presto, torna tanto, dai che siamo di nuovo insieme. Esatto, torneremo. E io adesso mi concentro sulla mia super mega ospitessa che ti ha fatto un ciao con la manina. E io radiofonici. Rispondo con Stefano, con uno sguardo affascinante e stiloso, sì. Molto bene, sono un po' offesa, perché volevo vederti, però sarà per la prossima, che ne dici? Lela sapeva che c'era il bello del coxo. Era per questo che era venuta. Quando sono arrivata solo io, ho detto ok, te sei la bella del coxo, ma te conoscevo già, come di. Per la prossima volta, perché comunque questa Lela ne fa un sacco di cose, quindi, e poi, come si sa, quando un'ospitessa sale sul coxo, c'ha da tornare. È una fortuna. Un ospite del coxo tira l'altro. Molto bene, allora ci vedremo prestissimo. Buon rientro, mi raccomando, goditi l'ultra velocità e poi attento in Austria che invece si va piano. Ok. Ok. Un bacio. Grazie. Ciao. Un bacio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Eccoci Lela, siamo tornate tu ed io e i Ringer che ci ascoltano. Fantastico, i Ringer stanno bene? Ringer. I Ringo? No vabbè, questa adesso credo che cambieranno canale, cancelleranno completamente. Scusate, quando vi dirò che cosa faccio nella vita forse mi perdonerete. Lo diciamo subito che cosa fai nella vita e quindi di riflesso su cosa si concentrerà questo coxo? Oh, aspetta. Vai. Io sono una clownessa. Che fa un po' leonessa. Fa un po' leonessa, un po' aggressive, sì. Aspetta, fermo lì che ce l'ho. No, non ce l'ho. Col tempo radiofonico che... Clownessa. Sono una clown. Da quanto tempo? Da quanto tempo? Una bella domanda, direi... che posso festeggiare i 20 anni quest'anno. 20 anni di clown. Esatto. E infatti tu sei qui perché tramite la tua esperienza andremo un pochino ad approfondire questo universo galassia che è il clown. E tu ne avrai tante da spiegarci, l'architettura, il prototipo, il tipo, la struttura ergonomica della professione, che però non è neanche proprio una professione, è un qualcosa che abbiamo anche tutti dentro volendo, no? Bravissima. Diciamo che io ne ho fatto una professione, però il clown, al contrario di quello che si può pensare, non è un personaggio da interpretare, ma è una dinamica di noi stessi. Tutti noi abbiamo un clown. Mi sto esaltando troppo, Fedra? No, va benissimo, stavo cercando un jingle adeguato, ma quello più carico l'ho già usato, e quindi va bene. Allora, facciamo così. Per ripigliarci un attimo che da tutte queste spoppeggianti, non si può sentire, queste insomma, mettiamo un brano, lo mettiamo lui bello carico se non mi ricordo male, proviamo con questo, vediamo. Ciao Eros. avendoci Amy Winehouse in sottofondo, io inviterei Lela a rivelarsi nella sua clowneria più passionale. Rivelaci qualche altra corda della tua clownerie. Si può dire clownerie? Certo, si può dire clownerie, viene intesa in modi diversi, nel senso che magari la clownerie richiama più i lazzi, la gag. Una clownessa è qualcosa di più, come posso dire, di più... Sì, Fedra, scusami. No, anzi, di più ancora. Di più? Sì, di più. No, la questione è questa, alla fine. Il clown, poi magari mi dici anche da dove deriva la parola, da dove è stata presa, se ha qualche significato profondo. Però in buona sostanza il clown è quell'aspetto di oltre che ciascun essere umano ha in ciascuna delle sue dinamiche di espressione, sia quella passionale, sia quella più invece... Chissà perché con questa musica viene solo quella passionale. Sarà forse pensando ai rigger che sono in autostrada. Vabbè, non possiamo più nominare quella parola. Basta per questa rigger. Puntata, perché okay. Sennò io vado in tilt. Quindi... Ma guarda, cara Fedra, che ne dici se ti raccontassi come io ho incontrato il clown e come ho cominciato alla ricerca del mio clown? Mi piacerebbe tantissimo. Ti piacerebbe tantissimo? Sì, Lela, fallo. Molto fallo bene. Per noi. Nel lontano, adesso non riesco a fare bene i conti, ma calcolate che ho 42 anni e a 15 anni ho iniziato a fare teatro amatoriale. Dopo un po' questo teatro amatoriale si è trasformato in un lavoro e facevo spettacoli per bambini. Ebbene, a un certo punto ho cominciato a interpretare il clown. Ma facevo il clown con le scarpone, il naso rosso, tutta truccata, proprio come se interpretassi un personaggio, che ne so, la fatina, il folletto, la principessa. Ma proprio con l'aspetto di quello lì del clown, del film It, di quel... No, molto più dolce. Anzi, devo dire la verità... Il film It ci ha un po' rovinato la piazza, perché appena dici clown, soprattutto, ecco, calcoliamo che io sono formatrice, lavoro con bambini di 3 anni, crescendo fino ad arrivare a novantenni. Il mio allievo più anziano aveva 84 anni ed era un... molto interessante. Vabbè, non mi fare divagare troppo. No, ecco. No. Quindi interpretavo il clown, poi un bel giorno mi hanno detto: "Vuoi venire a fare un laboratorio sul clown?" Pah! Folgorazione. Non avevo capito un accidente. E ho cominciato a scoprire piano piano il mio clown, ho iniziato una ricerca sul mio lato ridicolo e niente, questa ricerca continua aspetta, anche come aspetta, formatrice. Aspetta, perché quella piccola parola che stava tra clown e il mio clown, bravissima. E secondo me qui ci sta proprio un evidenziare, scrivere a caratteri cubitali, è mio e di nessun altro, tu c'hai il tuo, io c'ho il mio. Brava. Ognuno ha il proprio clown. E io poi devo dire che mi parlamene piace... un po' di più di questa, proprio perché è proprio tuo o è proprio mio o suo? Perché non è un personaggio che si può interpretare. Ora un attore mi direbbe: ma non tutti i personaggi sono uguali, io interpreterò la mia Giulietta, tu la tua. Il clown è qualcosa di diverso, perché muove proprio dalle nostre verità personali. E attraverso il clown ci possiamo permettere di rompere dei tabù, di intraprendere una vita in modo illogico, senza essere giudicati. Mm. E questo fa del clown appunto il nostro clown. Ed è per questo che non si impara a fare il clown attraverso le gag e i lazzi, ma scoprendo ed accettando proprio i nostri lati. Io penso che ho anche coniato una frase che credo di averla inventata io, ma non ne sono poi sicura. Il naso rosso è la maschera che smaschera, perché è la maschera che ci permette di togliere le maschere quotidiane. E questa cosa, in effetti, io l'ho anche letta, facendo un po' fatica perché era piccolino, nel testo di presentazione che accompagnava la presentazione del workshop che terrai il domenica 10. Dico bene? Benissimo, mia cara. Sì, perché terrò un workshop per principianti e non, nel senso che non occorre essere già esperti o aver già capito, anzi, se ancora si pensa che il clown sia un cliché da interpretare, il laboratorio, il workshop di domenica è quello che fa per voi. Quindi parliamo già del mio laboratorio. Dici così, che è troppo presto? D'amblè, troppo presto. troppo presto. Qualcos'altro. Allora, clown naso rosso. Sì. Però in realtà non sempre un naso rosso corrisponde a un personaggio clown. Poi ci sono anche diverse figure del clown canonico, no? Tipo il clown bianco, l'Augusto. Ci puoi dare una piccola infarinatura a riguardo? Ok, molto volentieri. Intanto la parola clown richiama ha un significato specifico, dire zotico. Ah sì? In che lingua? Beh, oddio, in inglese arcaico, credo, sì. E vabbè, non vi vorrei fare proprio tutta la storia partendo dal clown Grimaldi, il peccato. Primissimo clown, mi sembra esagerato, ma partirei dal clown, dal primo clown che ti viene in mente. Quando dici clown, subito ti viene in mente il circo. Sì. E all'interno del circo, e pensare che a me i clown del circo non piacevano da bambina. E cosa faccio nella vita? Il clown. Ma non del circo. No, però non disdegno affatto. No, anche per carità, c'è arte, c'è sapere. Assolutamente. Sia per quanto riguarda il circo tradizionale che per quanto riguarda il nuovo circo. Sì, ma hai ragione, il nuovo circo per quanto riguarda i miei gusti. Tu hai nominato questa figura, il clown bianco. Sì. E io te ne aggiungo un'altra, il clown Augusto. Mm-hmm. Queste due figure, questi due prototipi di clown rappresentano un po', in termini anche psicoanalitici, che parolone, e rappresentano il superio e l'ess. Oddio, che cosa rappresentano quindi? Il clown bianco, ve lo descrivo proprio in parole povere, rappresenta la perfezione, il giudizio. Quindi, quali sono i nostri clown bianchi? Il superio, questo. Il superio, il maestro, il prete, la mamma, tutti coloro che. Una volta anche i parlamentari, quando non si erano ancora trasformati in queste cose strane. Esatto. Mentre il clown Augusto rappresenta l'ess. Il clown Augusto non si preoccupa di essere giudicato. È un po' come un bambino di 3 anni che ancora non è dentro, che non ha ancora le maschere, non è ancora dentro le regole sociali. Lui fa e agisce distinto. Domanda. Prego, parli pure. Grazie. Allora, se ciascuno c'ha il suo, anche clown bianco, clown Augusto e via dicendo, oppure uno è solo bianco o solo Augusto o... Cara Fedra, ottima domanda. Grazie. È una questione di energia e di status. Diciamo che quando si comincia a lavorare sul proprio clown, sia artisticamente che a livello di servizio alla persona, perché magari accenneremo anche a questa figura del clown, non so, negli ospedali e quant'altro, in generale, ci si trova meglio, ci si sente di più bianchi o augusti, ma anche a seconda delle persone con cui fai coppia. Per dirti, magari tu con me potresti essere Augusto e con Stefano potresti essere il suo bianco. È dipende. Vero. Io con Stefano sono abbastanza bianco, se ho capito bene che cos'è bianco. Cioè, lo bacchetto. Sì, certo. Cioè, io lo mettevo anche in punizione fino a 2 stagioni fa. In punizione addirittura? Sì, perché faceva delle coxate un po' troppo eccessive, quindi sì, vabbè, insomma, se lo meritava. E pensa, pensa a questa cosa, che quando l'Augusto, dove sta la difficoltà? Quando l'Augusto non ascolta il bianco, in realtà non lo fa per cattiveria. Il bianco chiama l'Augusto e dice vieni qua. L'Augusto parte e vuole andare dal bianco perché lo ama. Ma in realtà che cosa accade? Passa una farfalla e l'Augusto deve seguire assolutamente quella farfalla. Quindi il bianco lo ribacchetta, torna a seguire il bianco, ma potrebbe passare un coniglio e il bianco deve rassegnarsi perché l'Augusto deve correre dietro il coniglio. Troppo metaforica? No, era molto chiara, mi sembra, come esempio. Mi fa pensare che alla fine l'Augusto sia un essere fenomenologico. cioè che Santa praticamente Cleopatra, fenomeno logico, adesso devo rispolverare anche la mia laurea in filosofia? Scusami, no, perché effettivamente, cioè, quello che gli si para innanzi, no, è un accogliere, un abbracciare, un farsi travolgere dal mondo. Esatto. Che è una cosa che non ci concediamo mai di fare, così come dare sfogo ai nostri istinti di perfezionismo. Esatto, brava, molto brava. Sembra quasi che tu abbia già avuto a che fare con i clown. No, veramente sono proprio riflessioni fresche fresche che mi stai ispirando tu, grande master, grande master, grande master. E infatti parlavamo poi un'altra cosa, però forse il tempo comincia un pochino a stringere, magari gli diamo un'infarinatura, ecco. la riprendiamo dopo. Sì. Di questa cosa del servizio alla persona, formazioni, sono due parole che sono venute fuori, sì, nel corso di questa prima parte. E quindi, se non ricordo male, mi è capitato di sentire, anche ai tempi in cui frequentavo il corso di formazione Nuovo Cirque, quindi voilà. Questi clown in corsia, giusto? Sì. Perché da un po' di tempo è partito con un tale Patch Adams. Diccela tutta, vai. Diciamo che, allora, sì. Patch Adams è il medico statunitense che ha, diciamo, reso la clown terapia famosa nel mondo e ha fatto tantissimo. Lui sicuramente un professionista di cuore, un artista, ha messo a servizio anche, diciamo, questa sua arte clownesca appunto per aiutare le persone, perché si è notato proprio anche a livello scientifico che la risata, la clown terapia, stimola le endorfine addirittura. Quindi allevia il dolore, la sofferenza, e non solo, attenzione, nei bambini ma anche nell'adulto. In realtà altri clown prima di Patch Adams, anche dei clown molto famosi come la famiglia Fratellini, che sono dei clown che del secolo scorso, già andavano negli ospedali, soprattutto nei reparti di pediatria. Ma adesso torniamo sul discorso dei clown dottori o gli operatori del sorriso, che io ho modo di frequentare spesso perché sono formatrice, appunto. Ma devo dire che a volte mi trovo di fronte a situazioni in cui, dopo aver fatto una lezione insieme a me, ci rimangono un po' male, perché magari si aspettavano qualcos'altro, si aspettavano una professionista che insegnasse loro le cadute, a fare i palloncini. Ebbene no. Io dico sempre, ragazzi, ora vi smonto un attimo dalle vostre convinzioni che mettiamoci un naso rosso, facciamoci due fiorelline, tanto andiamo, tanto amore, e cominciamo invece un vero e proprio percorso per conoscerci meglio, per far emergere il nostro lato ridicolo e cercare, attenzione, qua devi trovare un bel jingle. Aspetta. Perché non ce l'ho, credo. Il clown non finge, il clown racconta una grande bugia. Era quello delle menzioni, ma non ho trovato di meglio. Vabbè. Allora, quindi il clown non finge, il clown racconta una bugia. Sì. Ed è bellissima questa cosa, perché è il contrario di quello che mi hanno insegnato a essere l'attore. Perché l'attore sulla scena l'unica cosa che non può fare è mentire, fingere. Lui può solo dire la verità. È bellissima questa cosa. Sono due metà, cioè si compongono. Le illuminazioni. Ma a questo punto, sì, su questa frase, sì, ci ritroveremo tra qualche minuto. Ok. Nascondi la fantasia, è una vita di fatica e polvere. Nella stessa valigia di vent'anni fa, che ride di te. Stai andando via, vai in frantumi. scegliere è di poche parole e non da spiegazioni, ma negli occhi a malinconia ogni suo silenzio di abitudine. Quanto mi dispiace interrompere le canzoni, ma il tempo è tiranno e lo è ancora di più quando si parla di qualcosa di così interessante con la nostra super ospitessa della 253esima puntata di Coxo Spaziale. Brava! Yeah! Manuela Ara, detta Lela, la clownessa del mio cuore. Però adesso, anche se siamo ritornati in diretta dopo questo splendido anziano brano di 33 ore che ci piace tanto tanto, in realtà noi saremo un pochino, come dire, interrotte ulteriormente, perché questo è quello che sta per succedere ora. L'angolo della menzione. E siamo prontissimi con le menzioni per la prossima settimana e oltre. Chi comincia? Comincio io con domenica 10, come da poco abbiamo anticipato, ma in realtà poi c'è qualcosa anche domani che mi era sfuggito, ma che domani su www.coxospaziale.blogspot.com con la voce rotta troverete con presentazione link. E invece, quindi sabato ce lo dici poi un attimo, magari lo diciamo in chiusura, e domenica invece la scoperta del clown, come ricominciare a stupirsi, a La Bici e Collaboratorio, il laboratorio condotto dall'attrice, clown e racconta storie Manuela Ara, aiuterà a far emergere il clown presente in ciascuno di noi. Grazie al naso rosso si potranno tirare giù le maschere sociali del quotidiano, almeno per un po', e pare che sia proprio rigenerante. E martedì 12, lo leggi tu? Lo leggo io. C'era una volta a Bologna il pesce, chiocciola, pane e panelle. L'Accademia Italiana della Cucina lo scorso novembre ha depositato la ricetta degli spaghetti col tonno, facendola così rientrare tra le ricette tipiche della cucina bolognese. Mov'è? Mo dai. A noi di pane e panelle, che di pesce ci occupiamo, questa notizia ha ispirato ed abbiamo voluto scavare nella storia. Salutiamo Luca Pappalardo e andremo a scoprire martedì che menù avrà creato di riflesso. Invece giovedì 14 febbraio, e questa è una menzione di Stefano, alle ore 22, Valentina Mattarozzi al Bravo Caffè. La cantante jazz verrà accompagnata da Luigi Scerra, pianoforte, Gian Nicola Spezzigu, contrabbasso, Umberto Genovese, batteria, per un San Valentino speciale, dove potrete ascoltare canzoni che parlano d'amore, ma interpretate con ironia e allegria, senza dimenticare però che anche un pizzico di romanticismo, era meglio se lo leggevi tu, spazieremo tra il pop, il jazz, il blues e il rock. E vado io? Vai tu! 16 e 17 febbraio, Poetiche del Sensibile, due workshop di Contact Improvisation, chiocciola, spazio danza, due appuntamenti molto ludici ed aperti a tutti, che permetteranno di sperimentare il movimento in una dimensione non quotidiana. Si impareranno cose tipo cadere senza farsi male o accogliere un corpo in volo. Workshop condotti da Alessandro Franceschelli e organizzati da Officina Yoga in collaborazione con Muovete Spazio Danza. Wow! Ma sei stata meravigliosa e grazie alla meraviglia di questa lettura ti avviso, ti informo che abbiamo anche online, in linea, un ospite telefonico, il primo ospite telefonico della 253esima puntata di Coxo Spaziale, che è Laura Ferrari, che ha organizzato tramite Officina Yoga e questo workshop. Ciao Laura, sei ancora con noi? Ciao. Ciao Fedra, sì, sono con voi. Benvenuta al Coxo, è un piacere e pensa bene di tornarci presto in carne ed ossa la prossima volta. Volentieri, sì. Benissimo. Allora, quindi questa, la cosa che mi ha colpito di questo annuncio è questa cosa di si impareranno cose tipo cadere senza farsi male o accogliere un corpo in volo, che sono effettivamente due emisferi del movimento che sono molto lontani tra di loro. Cosa puoi dirmi a riguardo, o se vuoi dirmi anche qualcos'altro, Che sul cadere e sul volare sono molto lontani tra di loro, ma in realtà sono complementari. Hanno sempre a che fare con una cosa importantissima nella danza, nel contact, ma in tutti i lavori con il corpo. Hanno a che fare con la relazione con la gravità. Noi tutto quello che facciamo, dalle azioni più piccole, quotidiane, ai gesti più grandi, ci confrontiamo sempre con la forza di gravità, che è talmente presente che non la percepiamo più. Cadere a terra ha a che fare con questo. Farsela diventare amica, capire come si può cadere a terra senza farsi male. E quindi questa confidenza si prende anche la facilità per volare, per saltare, come fanno i bambini. Molto chiaro, ed infatti l'invito ad Alessandro a portare il suo percorso di ricerca qui, la poetica del sensibile, è anche perché abbiamo la garanzia che lui, oltre ad avere una grandissima esperienza sul campo, riesce a trasmettere queste esperienze, non si possono chiamare nozioni, queste esperienze in maniera anche molto ludico e divertente. È la seconda volta che torna, vero? Perché lui sta in Francia. Esatto, lui sta a Marsiglia, però la sua famiglia è bolognese, è originario di Bologna. Io e Alessandro ci conoscevamo quando eravamo giovani studenti universitari e quindi torna spesso, e abbiamo pensato di cogliere l'occasione di questi suoi rientri per organizzare dei piccoli incontri con lui. Il primo è stato a dicembre. E la cosa molto bella che tu già dicevi è stato molto divertente, perché non c'è una parte didattica troppo stringente, c'è veramente un lavoro lasciato molto aperto all'esplorazione di ciascuno. Quindi è veramente un'esperienza che si fa con una grammatica di base, con delle indicazioni di percorso, in cui si sperimentano le proprie capacità creative, le proprie possibilità immaginative in maniera molto divertente. Indubbiamente, fra l'altro io ti ringrazio in maniera particolare perché sono una grandissima appassionata della Contact Improvisation, e più si riesce a promuovere la sua cultura, la sua diffusione nella città dove vivo, più io sono contenta e gioisco. Quindi grazie mille per lo sforzo organizzativo, e sicuramente ci vedremo la settimana prossima, chissà che non vieni anche a trovarci in studio. Direi che la prossima settimana verrò a trovarvi in studio. Meraviglioso, quindi sarai tra gli ospiti e le ospitesse del 254esimo Coxo. Ti ringrazio tantissimo e buona serata e buon weekend a questo punto, spero tu te lo possa godere. Grazie a voi e buon proseguimento per la trasmissione, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao. Com'è stata questa esperienza di ospite telefonico, dopo la menzione? Molto interessante, e direi anche che potremmo anche scambiarci gli allievi. Mi sembra anche complementare, perché cadere senza farsi male, accogliere un corpo in volo. Ma io la infatti terra. Credo che si potrebbe fare qualche contaminazione coxo ci sta sempre, bene. Però no, dico contact clownesca. Assolutamente. Potrebbe essere interessante da proporre in qualche festival e tornare in Europa come i vecchi tempi. Che ne dici, vecchierella? Sbottoniamoci un pochino. No, non ci sbottoniamo, questo lo teniamo per dopo, quando andremo a berci la nostra birretta di post trasmissione. Io continuo a comunque emozionarmi la faringe, mi va via la voce e tutto. No, eravamo rimasti su quella frase. Sì. La ripetiamo per i nostri ascoltatori? Il clown non finge, ma racconta una grande bugia. Ovvero? Ovvero, partendo dalle verità personali, il clown riesce a riproporre una realtà distorta. Al clown piace la realtà, la vuole imitare, ma non la sa imitare bene. Il clown è illogico. Se per andare da un punto A a un punto B la strada più corta è quella che logicamente noi faremmo, il clown non andrà mai da A a B per quella strada, ma cercherà le vie più tortuose. Ed è questo che suscita poi l'ilarità nel pubblico. Ma non solo ilarità, perché io direi che il clown è, quando mi chiedono, ma il clown può anche non essere comico, ma secondo me il clown è comico e poetico al tempo stesso. E la cosa veramente incredibile è che chi guarda il clown si immedesima e si sente anche superiore. Fondamentalmente il clown fa dei propri difetti i propri pregi e sa gestire la frustrazione. Allora, torniamo alle origini quindi, sì, perché abbiamo cominciato questo percorso con una tua breve vocazione del tuo inizio, no? Esatto. Quando hai cominciato a comprendere questo oltre, questa ampiezza che in realtà si nascondeva dietro il nasetto rosso che già portavi senza però comprenderne la portata? Assolutamente. Qual è stato il primo tratto su cui hai lavorato? Questa è una domanda anche abbastanza intima, perché si tratta di te, di ciò che eri, sei. Ho lavorato sul non giudicarmi e sul togliere, perché magari pensando al clown io pensavo di dover aggiungere, di dover fare, di dover la fare parrucca, le scarpone, parrucche, trucco, scarpone. Ci sono passata attraverso un trucco esagerato, all'esagerazione, e poi mi sono resa conto che dovevo avere il coraggio di mostrarmi al pubblico nella mia essenza, avere il coraggio di mostrarmi con tutte le mie fragilità, che era l'unico modo per far emergere il mio clown, per far sì che questa maschera fosse qualcosa di più di un pezzo di plastica rosso rotondo, ma che fosse proprio qualcosa che mi svelasse al mondo. Quindi ho dovuto iniziare un percorso di non giudizio e di togliere, entrare in scena, scoprire il mondo con gli occhi di un bambino. E invece io avevo mille difese, io volevo essere brava perché recitavo bene, ero brava e veramente cito, a me è successo proprio quello che è successo agli allievi di Lecoq, questo grande maestro attore clown, e quando introdusse il clown proprio come disciplina nella sua scuola chiese agli allievi di ok, mettetevi il naso e fate ridere. Nessun allievo riuscì a far ridere, fu un debacle, un fiasco totale proprio. E il clown è cominciato a emergere col fiasco giusto, col fiasco del clown, quando una volta in pausa i ragazzi hanno cominciato a domandarsi ma perché non è andata bene, hanno cominciato a chiedersi il perché di tutto questo fallimento, della frustrazione, a esporre il proprio fallimento, ad accettarlo. Ed è incredibile questa cosa, anche perché vorrei dirti una cosa: non tutti hanno il clown vicino, al di là del grande artista. Comunque per alcuni è più semplice trovare il clown, vedi mio padre che è sempre stato un clown inconsapevole, una fortuna. Io che studiavo, andavo a fare workshop in tutta Europa, mio padre ce l'aveva naturale ma faceva il bancario, non aveva voglia mezza di intraprendere questa professione. Ecco, e io credo, adesso qua la dico grossa, credo di essere una buona formatrice perché capisco le persone, perché io non ce l'avevo così vicino il clown, ho dovuto lavorare. E quando mi vedo di fronte le persone che sono frustrate, che non riescono, a me sembra di leggerli proprio dentro. Ok, divento un po' new age in questo momento però è vero, perché cioè capisco il loro tipo di percorso. E anche quando vedo quell'istante in cui riescono a lasciarsi andare e si stupiscono di quello che fanno, perché il clown è stupido, perché è in grado di stupirsi, io sono troppo felice. E ci credo. È una mission la mia. E ci credo. Ma questa cosa, fra l'altro, si parla di clown al servizio della persona, esatto, e queste cose qui. E in realtà la prima persona che questa figura serve è proprio il sé. Assolutamente. Come ci si sente dopo che si lascia esprimere questa propria il proprio clown, intendendo poi tutte le cose che di solito si tengono celate e che non sono a norma, diciamo? Ci si sente liberi di, appunto, ci si sente liberati, diciamo, di un peso, di un fardello. Ma si potrebbe pensare, ma se è così allora il clown può fare quello che gli pare, dà fuoco a qualcosa. In realtà c'è sempre una nostra parte del cervello che rimane accesa, ovviamente, perché non fai danno a nessuno, non fai del male. L'altra parte è come se si spegnesse, mentre noi siamo abituati a essere sempre super controllati, perché tutti i clown bianchi della nostra vita, mi viene da dire anche forse per fortuna, siamo in una società, ci sono delle regole, ma quando riusciamo a trovare nel clown questa libertà, riusciamo anche a comunicare con gli altri in modo diverso. Per questo io dico che i miei workshop non sono soltanto per chi poi vuole andare in giro col naso rosso o vuole fare l'artista o l'animatore o quant'altro, ma anche per chi vuole fare un'esperienza nuova. Pensa che l'ho fatto anche per in una ditta, gente che quando hanno saputo verrà una clown a farci formazione, oh mamma mia, questa cosa ci fa fare. Dopo una prima oretta di diffidenza, alla fine non volevano più togliersi il naso rosso. Ma allora, quindi adesso mi ha un po' fregato, perché io c'avevo la domanda, proprio quella un po' bastardina, che volevo provare a metterti l'incroce, ma siamo entrati nella questione workshop. Ah. Ci dai qualche anticipazione su che cosa sarà questo incontro? Fondamentalmente sarà diviso in due parti. Una parte di gioco, cosiddetti rompighiaccio, che non saranno proprio spiegati, perché la cosa bella è proprio l'esperienza. Il clown emerge proprio nell'esperienza ludica, e più domande ci sono, più non si capisce all'inizio, meglio è. Ci deve essere un po' di confusione. E poi si passerà proprio alle improvvisazioni. Ovviamente sono 7 ore, quindi dalle 10 alle 13. E dalle 14 alle 18, che magari può essere anche impegnativo, divertente sì, ma anche impegnativo, perché poi bisognerà sostenere il gruppo. Perché che cosa accade in un laboratorio? Questo penso in qualunque tipo di laboratorio: si crea un cerchio che rappresenta un po' il contenitore delle emozioni, dei sentimenti, delle frustrazioni, e normalmente questo contenitore regge e sostiene. È un inizio, una scoperta che spero abbia poi un seguito. Ma visto che così io ti ho anche spulciato un attimino su Facebook, mi sono accorta di un'altra cosa che in realtà succede domani, e che questo rappresenta forse un altro côté di questa tua stessa pratica. Esatto, ecco, come hai detto tu all'inizio, io sono attrice, clown, formatrice, racconta storie, e domani sera ci sarà uno spettacolo comico di 5 clownesse, una di queste la state sentendo in questo momento, e le fate ad arte, in via Guelfa 40 a Camere d'Aria, ospitati dall'associazione Oltre. E queste 5 clownesse metteranno in scena Beviamoci Su. Ora, non abbiamo il naso rosso, ma se ne vedranno delle belle. E ne approfitto per salutare le mie amiche clownesse, che sono Bianca Ferricelli, Stefania Scatigna, Sara Graci, Amelia Bagalà e Manuela Ara. E diciamo che siamo state clown, attrici, registe, factotum. Ma questa è una creazione originale? Assolutamente originalissima. E come germina, come è nata? Fondamentalmente è nata un bicchiere di vino, su, facciamo vedere, possiamo mettere insieme, tu hai un numero? Sì, ce l'ho anch'io, ok, va bene, ok, questi numeri possono andare bene, sistemiamoli, però magari ci vuole qualcos'altro, allora improvvisiamo. Ecco, il clown non nasce a tavolino. E neanche i numeri del clown nascono a tavolino, secondo me, ma nascono dall'esperienza. Mi viene un'ispirazione coxica. Vai, coxa. Ma non è che prossimamente voi tutte cinque clownesse venite a trovarmi in radio e facciamo una puntata di sperimentazione clownesca radiofonica? Sì, ragazze, sì. Guarda che ci stiamo tutte, ci stiamo tutte, sì, cinque, sì, mie care. Sì, poi ci vorrà un angolino anche per Stefano, che se porto cinque clownesse in studio, figurati se non viene. Attenzione Stefano, cinque clownesse. Sì. No, sarebbe bellissimo perché, vabbè, poi questa cosa, un'altra cosa che mi ha risuonato rispetto ai temi che abbiamo trattato, e che tu dicevi una continuità con la pratica della content improvisation, è che effettivamente questo ritorno a una sensibilità fisica dell'infanzia, una ludicità del cadere, del gioco, del contatto, è un qualcosa che si recupera nella contact, e questa potrebbe essere anche lì una cosa interessante da provare a mettere insieme. Assolutamente. Io insisto. Insisti. Allora, facciamo così. Metto un breve brano e poi ritorniamo per i saluti e vediamo se ci siamo dimenticate qualcosa. Ottimo. Ok, allora andiamo con le Wooden Chicks. Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri, così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presso poco così ti amo. Anche in quei giorni non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni, non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono, non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta, la ricrescita è una piaga e non mi bastano alla meta, ci vorrebbe un diserbante dedicato, io ce l'ho, spero solo che rispetti il mio pH. Movenze, completini perfetti. Girls band. Oh, quando uno è naturale, naturale. Girls. Tra l'altro questo motivetto niente male. Non mi chiedermi un orgasmo che non so come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. Se li avrei saputi molte li imparavo. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali, non cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali, non mi chiedermi di rivelarti dove è il punto G, con il mio alfabeto arrivo fino a F. Girls band, belle ragazze collocate perfette, noi siamo top e dalle vedute strette. Girls band, sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Prototipo di donna libera, tutta acqua e sapone, non ti dai nemmeno un'aria, tu così lucida ed estera, tu che sei più semplice d'un mosaico con una tessera, tu hai più colori di una gerbera, Venere berbera, tu genuina come il Barbera, tu che non mi dai mai l'idea d'aver la minima idea di quel che dai. Se saprai parlare senza farti diventare rosso, se dovrei vestire i panni senza toglierli di dosso, se potrai dire cose meno imbarazzanti le direi, ma non sarei più gradita in una Caro Stefano, questa è dedicata a te, una bella canzone sopra un brano in diretta. E infatti Stefano ci scrive: Sciaccia, con cinque clownesse vengo con Saglietto, che poi chiederemo chi è sto Saglietto. Chi poi è? Non si sa. Poi se riesco a uscire da questa visione, aspetta che sono arrivati anche dei messaggini da WhatsApp. Quanti che ci hanno seguito oggi? Sempre che rischio di canale. Boh. Ok. Non riesco però a visualizzare i messaggini. Sì, aspetta, vediamo se. Ricorda di mettere l'MP3 che ti ho mandato in email. Io non l'ho scaricato. Oh oh. Però magari lo metto in post produzione. Arte contemporanea. Sono all'ultimo minuto di Arte Fiera con Simone Menegoi e Gloria Bartoli che mi dicono com'è andata la prima vostra fiera. Secondo me bene, e finché lo dico io conta fino a un certo punto. Quello che è importante è che lo dicono la maggioranza netta dei galleristi, lo dicono i collezionisti. Lo dice la città. E lo dice anche la stampa, nazionale. Quindi. Lo dico anch'io che non conto tanto, però effettivamente in città si è respirata una bella aria nuova e credo che questo sia merito vostro, il merito di Lorenzo, ma insomma c'è anche molta voglia di rinnovarsi un po'. È una fiera amata e quindi un tentativo serio, appassionato, partecipato di rinnovarla credo sia molto incoraggiato. Noi abbiamo sentito veramente la città molto affettuosa intorno a noi. Molto bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento all'anno prossimo. Ovviamente, ci vediamo. Certo. Grazie. Ciao. Grazie. Poi c'è anche un ricordati che siamo stati a Sanremo per te, Radio Città Fujiko, Gianni Valeriani di Tir Promoter e dai è il momento, che non capisco ma era un messaggio di ieri in effetti. Bene, tutto regolare, solo Stefano manda messaggi e noi stiamo per concludere la 253esima puntata di Coxo Spaziale. La chiudiamo con qualche frase epica per il clown. Epica non è la parola giusta, forse. Qualche frase epica per il clown. Ne ho una. Sei pronta? Non lo so. Aspetta. Ok, vai. Un bravo clown è un bravo attore, ma non è detto che un bravo attore sia un bravo clown. Questo lo dicono i clown sempre. Che ne dici, Fede? Beh, mi sembra un po' di parte però, eh. Dici? No, ma c'è un pochino di attriba tra le due categorie? No, devo dire di no. La cosa che noto, ad esempio, che magari ci sono gli attori che all'inizio rifiutano un po'. Ma come? Perché hanno un'impostazione particolare. Io sono attrice anche e quindi... Però se l'attore riesce a fare il salto di qualità, il salto di abbandonare appunto tutto quello che può aver imparato e il preconcetto, la maschera di Hit o comunque l'interpretazione e lascia il clown di McDonald's uscire. Basta, tutti i miei incubi. L'attore ovviamente una volta che scopre il clown può essere una bomba. Immagino di sì. Sai che cosa? A me mi confido. Poi magari andiamo a ubriacarci insieme. Vai. A me non piace tanto che si usi la parola straniera per identificarlo. Sono una pagliaccia, sì, sono un pagliaccio. No, ma anche pagliaccio alla fine non... Che è diventato un po' dispregiativo, diciamo, ma per me pagliaccio è semplicemente la traduzione italiana di clown. Non lo so, forse potremmo anche provare a lavorare sui neologismi rispolverando la laurea in filosofia e applicandola a lessicologia. Potremmo. Ma a proposito, ti ho mai detto in che cosa mi sono laureata nello specifico? Secondo te, quale può essere stata la mia tesi di laurea? Wittgenstein. Sì. La ricerca del proprio clown, aspetti psicologici della dinamica clownesca. Eh sì, perché quando feci quel famoso primo laboratorio di clown, sono rimasta così colpita da sta figura che ho cominciato a girare da tutte le parti per fare laboratori, parlavo solo del clown, non mi sopportava più nessuno. Ma se mi permetti, si tratta quasi di una tesi di filosofia, ma interdisciplinare con psicologia. Certo tesoro, psicologia dell'arte. Ah, tu filosofia ed AMS? No, ero proprio filosofia, però ho insistito tanto per. No, però interdisciplinare con DAMS. Sì, peccato, sarebbe stato più bello con psicologia. Col senno di poi. No, c'era anche qualcosa di scienza della formazione e pensa che dopo, dopo questo, parallelamente alla mia formazione artistica, ho fatto una scuola ad alta formazione universitaria che si chiamava, indovina? No. Il clown a servizio della persona. Ma con Penzo? Anche, però il mio formatore clown è stato André Casacca, anche Penzo. Ah, sì, sì, l'ho sentito nominare, sì. Famosissimo, certo. Famosissimo. Ed erano gli stessi anni in cui anch'io praticavo quelle ricerche attorali. Attoriali, no? Sì. Cirque. Sì, esatto. Mi sa che ci siamo già beccate in quel periodo. Anche secondo me ci siamo già viste. Effettivamente c'è qualcosa di familiare. Performance, ricerca. Teatro. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale.